Ecco le parole e le espressioni nuove. Come al solito. As usual. Come al solito, ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Telefonare a. To phone. Telefonare a. Mio. My, masculine singular. Mio. Ufficio. Office. Ufficio. Il cellulare. The mobile phone. Il cellulare. Il telefonino. The mobile. Il telefonino. Però. But. Però. Elenco telefonico. Telephone directory. Elenco telefonico. Come al solito. Yes, as before, go over that language again until you're sure that you know it. E ascolti il nuovo dialogo.